Mi chiedi come fai a restare marxista, citando Marcuse e la scuola di Francoforte in pista. Capitale, libido, volontà di potenza, sono solo volti della stessa presenza. L'essere si mostra, ma in ogni contesto, di oscenza, idee, cambia il nome e non il resto. Heidegger sussurra, il linguaggio è la casa, ogni epoca lo traduce a modo suo senza pausa. Capitale, libido, volontà di potenza, maschere diverse della stessa presenza. Sesso, droga, potere, rock and roll, è l'uomo che rincorre un trono che non controlla il volo. Ma la vera rivoluzione sotto questo cielo spento è il tempo che difendi dal furto del plus tem. Vera rivoluzione sotto questo cielo spento è il tempo che difendi dal furto del plus tempo. Il capitalista ti ruba ore, respiro, plus lavoro firmato in fondo al contratto di tiro. Se al posto del denaro ci metti il tuo tempo, vedi che l'equazione resta sempre l'esempio. Saggio del plus tempo uguale, plus tempo diviso tempo necessario. Quanto gliene regalo ogni giorno, sul serio. Marx ha visto il bersaglio, ma ha sbagliato partito. Il potere concentrato non si scioglie all'infinito. Allora libera il sapere, spezza ogni filtro e padrone. Hai distribuito nuovi mezzi di produzione. Resistenza autentica e dominio sul fratello. Scegli la cura, non l'onnipotenza modello. In un mondo di eguali il comando perde senso. Chi vive per schiacciare resta solo vuoto e denso. Capitale, libido, volontà di potenza, maschere diverse della stessa presenza. Scegli la cura, spezza il loro controllo. Non sei un ingranaggio nel loro rock and roll. La vera rivoluzione non è uno slogan nel vento, è come usi da oggi il tuo plus tempo. Il tuo plus tempo.